Eccoci, buongiorno. Perfetto, a tutti. Eccoci qua, appunto, parliamo appunto, come dicevo, di questa iniziativa che si terrà nella zona Casal Bernocchi, ma raccontacela te, insomma, perché il Late Summer Day, così è definito, e racconta un po' di che cosa si tratta. Sì, beh, intanto, insomma, mi faceva piacere presentare questa iniziativa che, oltre anche alla bella due giorni a San Basilio di cui avete già parlato in ricordo di Fabrizio Ceruso, però insomma ci sarà anche questa iniziativa in un'altra periferia romana che appunto è Casal Bernocchi, che di fatto poi è la periferia di una periferia, ovvero Ostia. E il Late Summer Day, come già anticipato, ci sarà domani, quindi sabato 9 dalle 16 a mezzanotte, e viene organizzata dagli Ingranaggi, che è un gruppo appena nato in questo territorio, in collaborazione con realtà e strutture che invece, insomma, qui lavorano già da parecchio tempo, e vuole essere un po' un punto di rottura. Di fatto in questo territorio da tempo, da anni, essendo la vetrina sul mare di Roma, diventa un terreno di conquista da parte dell'imprenditoria locale, dalle solite famiglie mafiose, che tra l'altro è diventato ormai oggetto di dibattito anche su reti nazionali, stringono alleanze con l'estrema destra locale. Per cui è notizia di ieri che il 5 novembre insomma si terranno elezioni e ufficialmente inizia la campagna elettorale che in realtà Casa Pound qua sul litorale porta avanti in maniera aggressiva e violenta già da tempo, con minacce e intimidazioni ad attivisti sociali e di ragazzi delle scuole. Per cui questo evento di domani si pone anche, insomma, come punto di rottura, per cui abbiamo voluto riportare la storia di Renato Biagetti, assassinato 11 anni fa sempre sul litorale laziale, a Focene nello specifico. A lui abbiamo dedicato il trofeo Io non dimentico, che inizierà dalle 4 e sarà un torneo di calcio popolare ed un torneo di pallavolo. A seguire ci sarà un laboratorio di murga e poi faremo una passeggiata per le vie di palazzi popolari, Lotti, del quartiere Casal Bernocchi. Ci saranno laboratori il pomeriggio di orticoltura e street art, aperti a tutte le età. E a seguire, insomma, verso le 7:30 la presentazione del libro Prossima fermata, una storia per Renato, con Zero Calcare e la graditissima partecipazione del Comitato delle Madri per Roma Città Aperta, e finiremo con un concerto di Emilio Stella, dello Stress Altos e un DJ set del Frente Tropical Romano. E, insomma, durante tutta la giornata ci sarà la birreria del birrificio Pontino e cibo per un po' per tutti i gusti, insomma. Quindi quello che mi premeva ribadire è che, insomma, in un territorio del genere, ho provato a fare brevemente una descrizione di quella che è la situazione attuale, diventa importante dare un segnale, per cui invito tutti i compagni e le compagne, tutte le antifasciste e gli antifascisti romani a venirci a dare una mano, insomma, laddove, in quei territori nei quali la destra prova ad alzare la testa, prova ad essere un elemento problematico, secondo me va dato un segnale e va dato subito. Per cui ripeto solo la data: Late Summer Day, domani dalle 4 a mezzanotte in via Scartazzini, adiacente alla stazione di Casal Bernocchi. Per qualsiasi informazione aggiuntiva potete cercarla su Facebook, su appunto l'evento Late Summer Day, o sulla pagina Ingranaggi. Quindi ti ringrazio, quindi domani una bellissima giornata, anche molto lunga e densa di moltissime iniziative, per cui insomma ce n'è per tutti, insomma, dalla musica allo sport, per cui insomma una bellissima iniziativa, quindi ti ringraziamo di questa corrispondenza, invitiamo tutti e tutte della zona a partecipare. L'unica nota che volevo dire è che appunto quegli zozzoni che nominavi prima si presentano sempre alle elezioni, poi prendono 0,00%, perché insomma fanno schifo a tutti quanti. Scusami, era una breve nota, insomma, così mi è uscita fuori così, insomma, scusami tanto, ma insomma ci tenevo a dirlo. E va bene, quindi insomma, magari ci risentiremo anche domani per sentire come va l'iniziativa. Magari, grazie dello spazio, grazie della disponibilità. Ok, ciao ciao. Ciao a tutti.